Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Nuova domenica, nuova puntata di Personal Best qui su Radio 24. Al mio fianco immancabile Ivana Di Martino. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, puntata ricchissima quella di oggi, perché gli ospiti in studio sono due: Francesca De Rivo, la nostra nutrizionista preferita, bentornata. Buongiorno, grazie. E il coach Fabio Vedana. Buongiorno a tutti. Fabio Vedana è stato il mio coach preferito fino a quando non ho iniziato a seguire il suo piano di allenamento. Ora ogni volta che vado a correre gli fiscano le orecchie. Idem. Infatti effettivamente ha un po' di otite. È persistente da un po' di settimane. Sono le cuffie. Allora, studio pieno quello di oggi, perché iniziamo a lavorare sulla prima tabella radiofonica per preparare una maratona, diciamo, o la maratona di Milano o quella di Roma, che si correranno entrambe il prossimo 8 aprile. Abbiamo avuto questa idea di portare gli ascoltatori che già hanno corso, diciamo, una 10 km o una mezza maratona a correre la loro prima maratona, e ogni settimana dal 10 dicembre, quindi dalla prossima settimana, il coach Fabio Vedana, in coda a tutte le puntate di Personal Best, illustrerà il piano di allenamento per la settimana successiva. Poi il tutto sarà anche disponibile sulla pagina del programma sul sito di Radio 24. Inoltre, la nutrizionista Francesca De Rivo risponderà alle vostre domande, che potete inviare al nostro indirizzo mail personalbest@radio24.it. Questo, insomma, un po' per illustrare quello che è il nostro progetto. E partiamo però da Ivana. Come hai preparato tu la tua prima maratona? Allora, dunque, la mia prima maratona l'ho preparata facendo tantissimi lunghi. Allora, ai tempi ce l'ho preparata, fai conto, 10 anni fa, quindi tanti anni fa. E così si pensava di fare, o l'ho preparata da sola, quindi ho fatto tantissimi lunghi, poi facevo un po' a caso e infatti non è che è andata molto bene, anche perché al 32esimo non l'ho avuto, l'ho avuto al 30esimo il muro, l'ho proprio visto e ho fatto una fatica ad arrivare alla in fine fondo. Pazzesca. Sta dando tanto giusto entusiasmo infatti è quello che seguite assolutamente Fabio, perché è il modo migliore per affrontare una maratona, non come ho fatto io. Noi, per evitare appunto questa cosa, abbiamo ideato, insomma, questa preparazione per la prima maratona per chi ci ascolta. Allora Fabio, da cosa dobbiamo partire per iniziare a pensare alla nostra prima maratona? Ti ringrazio della domanda, però prima vorrei ricordare a Ivana che il tuo personal best nella maratona, un pochino di mio aiuto ce l'hai avuto. Sì, ma infatti non era la mia prima maratona. No, infatti quando poi la feci tanti anni dopo, devo dire che io non ho visto il muro. E quindi questo è già grazie a Fabio, ovviamente. Sì, ma ricorda anche il personal best. Lo si deve ricordare. È bello, perché comunque penso sia un bel ricordo. Sì, molto bello. Ad Amsterdam 3:08. Lei si nasconde sempre poi l'alta a questo personale. 10 anni dopo la prima, quindi, come si suol dire, il buon vino invecchiando migliora le proprie caratteristiche. Prendo come complimento, ovviamente. È sempre un complimento. Noi non abbiamo 10 anni, diciamo, per preparare una maratona, però in questo caso abbiamo 4 mesi che ci dividono dall'appuntamento della maratona ideale, che può essere quella di Roma o quella di Milano, insomma, perché ci dà quantomeno il tempo di prepararci come si deve. E Fabio, appunto, ti chiedevo prima da cosa dobbiamo partire per iniziare a mettere in calendario questa impresa. Allora, partiamo dall'aspetto fondamentale, che è: siamo in salute? Stiamo bene? Il nostro corpo è in una situazione di equilibrio? Abbiamo un piano e una strategia per quanto riguarda la corretta alimentazione? E poi, secondo aspetto importante, dobbiamo prenderci del tempo per noi per poter pianificare bene gli allenamenti. Direi proprio che la strategia ottimale è quella di segnare almeno 3 volte a settimana, se non addirittura 4, dalla fase più vicina alla gara, e quindi da febbraio, sull'agenda. E devo prendermi almeno 2 volte un'ora e 2 volte un periodo un po' più lungo. Questa è la prima azione che dobbiamo fare, perché è forse la più importante, perché se non fissiamo il tempo per noi, faremo sempre dei sacrifici enormi per incastrarlo. Quindi, visto che lo possiamo pianificare con almeno 4 mesi di, sì, di vantaggio, in agenda fissiamo già queste cose. E poi le altre due aspetti sono in salute, quindi una visita generale dal nostro medico di fiducia è molto indicata. E poi avere una strategia per quanto riguarda l'alimentazione, perché sarà determinante per poter recuperare bene gli allenamenti e anche in gara, per evitare i problemi che ha avuto Ivana del muro, perché il muro si può avviare con l'allenamento ma anche con la strategia alimentare e di idratazione. E Francesca, qual è questa strategia alimentare? Sì, prima della strategia alimentare, giustamente come diceva Fabio, siamo in salute, quindi fare degli esami del sangue e delle urine può essere fondamentale, anzi lo è. Però ci sono degli esami che spesso vengono trascurati e invece sono importantissimi. Per esempio lo stato della vitamina D. La vitamina D è conosciuta a tutti per il suo ruolo per la salute delle ossa, però in realtà adesso si stanno scoprendo tantissimi ruoli ed è importantissima anche per chi fa attività fisica. In primo luogo perché difende il nostro sistema immunitario, quindi andiamo incontro all'inverno, a una preparazione invernale, se siamo più forti da questo punto di vista sicuramente siamo più protetti. Ma è stato visto che a livello muscolare ci sono dei recettori per la vitamina D, quindi ha un ruolo proprio nel recupero ma anche nell'adattamento all'allenamento. Noi non viviamo ai Caraibi, quindi siamo molto lontani dall'essere esposti al sole tanto tempo. La maggior parte di noi ha una carenza di vitamina D o un'insufficienza di vitamina D e non lo sa. Quindi andiamo a valutare questo, che spesso è sottovalutato anche dal medico di base, quindi ricordiamoglielo. E poi anche una eventuale carenza di ferro, quindi anemia da carenza di ferro, che può dare stanchezza e affaticamento. Questo è molto molto comune nei runner ed è un'altra cosa che spesso viene sottovalutata. Ci si sente stanchi e non si sa perché. Poi andiamo a vedere questi valori nel sangue, sono sballati. Okay, molte volte magari si dà la responsabilità all'allenamento, magari, no? Alla fatica delle... Sì, anche. Oppure, ultima ma non ultima, è la funzionalità della tiroide. Quindi anche chi ha delle disfunzioni tiroidee spesso non lo sa, perché si tende a pensare che magari, non so, sia il metabolismo rallentato e quindi si ingrassa o si dimagrisce, quindi quella è una disfunzione tiroidea. In realtà non è così. È un problema alla tiroide, può dare molta stanchezza e affaticamento. Quindi, e questo può ovviamente compromettere i nostri allenamenti, la nostra preparazione alla maratona. Anche perché parlavi prima di poca esposizione al sole, noi iniziamo a allenarci proprio in questo periodo invernale. Iniziamo a allenarci adesso che arriva il freddo, sì, sì, sì. Quindi vale tutto quello che ho già detto in qualcuna delle puntate precedenti sull'apporto di vitamine e minerali da frutta e verdura, che in inverno diventano ancora più importanti. Potrebbe diventare importante anche un'integrazione di vitamina C durante questi mesi per chi fa attività fisica e chi è quindi più stressato a livello immunitario è importante, però di base c'è sempre l'alimentazione, quindi okay, in primo luogo l'alimentazione. Quindi Fabio, quanti giorni una persona alla settimana deve avere a disposizione? Almeno 4, dici? Abbiamo detto 4, non nel periodo iniziale, visto che il nostro progetto è per colui che per la prima volta vuole fare una maratona e quindi per la prima volta si affaccia ai 42 chilometri, e però ha già almeno corso, quindi un po' la prerogativa è che abbia almeno cominciato a fare questa avventura di mettere un passo dietro l'altro. E quindi coloro che hanno almeno fatto una 5, una 10 chilometri, ecco, diciamo che certo, il percorso che penso è proprio questo, perché altrimenti 4 mesi sono troppo pochi, perché necessita tutti gli adattamenti muscolari, tendini, ossei, che invece per un adulto che si avvicina a una distanza così lunga, 4 mesi veramente non è più un evento che aggiunge valore, aggiunge salute alla vita, ma ne può togliere, perché accelereremmo troppo questi processi di adattamento. Quindi questa è la premessa. Noi abbiamo a disposizione, secondo me, nei primi 2 mesi almeno dobbiamo investire 3 giornate. 3 giornate, 2 con un'oretta e invece una che magari facciamo concomitare con il weekend, dove siamo un po' più liberi dagli impegni professionali e familiari, e lì possiamo invece sbizzarrirci in una crescita progressiva del tempo che mettiamo a disposizione. Quindi l'impegno che viene chiesto non è molto. E abbinerei anche, per chi invece è esoso e ha più disponibilità in agenda, quello di aggiungere anche un paio di sedute di riequilibrio muscolare, che possono essere fatte o in palestra o con un personal training o anche a casa da soli, perché conoscendo due o tre tecniche abbastanza fondamentali, si può anche svolgere questo piano individualmente. Quindi stiamo parlando di addominali, plank, tutto questo. Esatto, okay. Tutto quello che riguarda un po' il riequilibrio muscolare, perché dobbiamo sempre pensare che la nostra muscolatura, il nostro scheletro saranno sottoposti per un periodo molto lungo allo stress, sia lungo perché durerà parecchie settimane, sia lungo perché comunque la gara sarà di parecchie ore, perché non possiamo essere ambiziosi di dire la mia prima maratona la farò sotto le tre ore, di come parlavamo nella puntata precedente, ma ci siamo dati un po' come discrimine quello delle quattro ore, cioè se riesco a farla sotto le quattro ore o sopra le quattro ore, quindi penso che questo sia un po' il discrimine, no? Che come prima maratona penso per un adulto che si affaccia alla corsa sia un obiettivo sicuramente sfidante e ambizioso. Ma più che altro perché è bello riuscire ad arrivare, no, alla prima maratona, cioè arrivare alla fine e non distrutto, cioè non, cioè con anche la gioia di dire ok, sono al traguardo e ce l'ho fatta, e godersi quel momento. È bello avere un'allieva come Ivana che ripete esattamente il mio mantra, che è la finish line. Infatti, devi arrivarci con il sorriso e devi potertela godere, perché altrimenti è inutile che tu lo faccia questo percorso, sia durante la gara sia durante i 4-5 mesi del viaggio, che è proprio il viaggio che hai. Rispetto a, invece al 5 km, a 10 km, no? Abbiamo bisogno di dal punto di vista anche dell'attrezzatura, per cui magari abbiamo bisogno di una scarpa un po' più stabile che ci permetta di fare una distanza un po' più in sicurezza per quanto riguarda, insomma, l'appoggio del piede. Poi magari può essere utile l'utilizzo di un cardiofrequenzimetro o è prematuro? Allora, la scelta della scarpa sicuramente è importante, perché devo avere una scarpa che mi permetta di poter correre in una situazione di sicurezza e di protezione. E quella del cardiofrequenzimetro è un aspetto anche questo che introdurrei, in quanto mi permette di identificare le intensità, che sono, assieme alla lunghezza dell'allenamento, i parametri fondamentali che determinano la qualità dell'allenamento stesso. E aggiungerei anche un'altra cosa che ripeto sempre, visto che siamo nell'era della tecnologia a disposizione di tutti, quella di potersi far filmare, perché spesso noi non abbiamo idea di quello che facciamo e quello che vedono gli altri. Noi abbiamo una percezione di noi mentre corriamo e magari è molto distonica rispetto a quella che è la realtà. E quindi è una pratica che si può fare velocemente con qualsiasi smartphone attuale, farsi riprendere da un amico e poi vedersi, che secondo me è un bel punto di partenza, perché se vedo che i maggiori errori che trovo in rete, o che potremmo anche dire noi, sono nella nostra immagine, forse è bene anche che intervenga dal punto di vista della postura, della tecnica. Tu, Silvio, mi sembra che sai qualcosa di questo. Sì, abbastanza. Sono uscito distrutto dalla prova. E Francesca, invece, cosa possiamo aggiungere per quanto riguarda l'alimentazione? Dunque, aggiungerei questo: il fatto di valutare ancora una volta lo stato nutrizionale, quindi non solo lo stato di salute. Prima di partire, vediamo. Primo, se dobbiamo perdere qualche chilo, perché è inutile farlo all'ultimo momento, anche perché all'inizio avremo sicuramente degli allenamenti che saranno meno impegnativi anche da un punto di vista energetico, quindi è il momento migliore per, insomma, verificare se dobbiamo perdere qualche chilo e farlo subito, e vedere poi magari il rapporto massa magra e massa grassa, quindi valutare insieme a un esperto se effettivamente questo è ottimale o può essere migliorato. Ovviamente per la corsa il peso influisce, questo lo sappiamo perché ce lo dobbiamo portare dietro, però è ancora più importante il rapporto che c'è tra la massa magra e la massa grassa, per cui alcuni di noi potranno magari diminuire il peso di più rispetto ad altri che, avendo tanta massa, sono più pesanti inevitabilmente, però non per questo meno efficienti. Altra cosa, valutare l'alimentazione, quindi l'alimentazione. Tu mi chiedevi prima cosa possiamo cambiare, dipende, nel senso che se la nostra alimentazione va bene così, è bilanciata anche in vitamine e minerali oltre che in macronutrienti, allora può non esserci nulla da cambiare. Nel caso in cui fosse errata, invece, tutti quegli errori devono essere corretti, quindi quello che va a fare un nutrizionista è un semplice colloquio in cui vengono valutate le abitudini alimentari ed eventualmente corrette. Noi andremo a lavorare in questa fase di preparazione della maratona soprattutto nell'utilizzo dei grassi, no Fabio? Per forza, senza questi non arriviamo, senza la capacità di utilizzarli non arriveremo mai alla finish line con il sorriso, perché dobbiamo pensare che noi abbiamo stoccati il glicogeno muscolare e quello epatico per fare uno sforzo che è vicino alle due ore, sotto le due ore, quindi penso che nessuno riesca a correre la maratona, anche perché il progetto di Nike è arrivato vicino ma non l'ha ancora battuto il Breaking 2, no? E quindi la strategia vincente è quella di abituare il corpo ad utilizzare sempre di più i grassi a scopo energetico. Tu l'altra volta in pista mi dicevi del classico passo da podista, diciamo, della domenica, è quello, il monopasso di chi corre sempre fortissimo, diciamo, e non allena, si allena a resistere allo sforzo, diciamo, fisicamente, ma non si allena alla maratona. Hai detto bene, si allena a far più fatica, ma non crea adattamenti strutturali. Anche perché il podista neofita ha la monovelocità, cioè si allena sempre a una velocità. Come me. Chissà di chi sta parlando. E spesso questa velocità non è allenante, quindi non è allenante nel senso che non crea adattamenti strutturali, cioè non ci adatta ad utilizzare meglio i grassi, ci abitua solo a sopportare un carico di fatica maggiore. Ed è quello che poi ci sballa dal punto di vista ormonale, perché andiamo a chiedere al nostro corpo degli adattamenti per recuperare l'allenamento troppo intensi rispetto alla nostra capacità di recupero. E questo è uno degli errori principali che viene fatto all'inizio, quello di avere una monointensità. Quindi cercheremo di differenziare bene almeno due, se non tre, intensità nel nostro percorso di allenamento in queste quattro settimane. Ed è un percorso educativo. Naturalmente tutti gli strumenti ci possono essere d'aiuto, il cronometro, il primo e più semplice, il cardiofrequenzimetro, perché ci dà una identificazione abbastanza precisa di quello che avviene all'interno del nostro corpo con l'adattamento della frequenza cardiaca, però dobbiamo, secondo me, non dimenticare mai quello che spesso ce ne dimentichiamo, è il fatto di allenare la nostra sensibilità, cioè allenare quindi la nostra capacità di riconoscere differenti intensità di fatica. Mi viene voglia di tornare indietro e provare riprovare. Direi che abbiamo tutti i parametri, insomma, per metterci in gioco e tentare l'impresa della nostra prima maratona, quindi dalla prossima domenica seguiremo tutti i consigli e la tabella che ci fornirà Fabio, insomma, e Francesca ci aiuterà dal punto di vista della nutrizione, dal punto di vista alimentare, insomma, con le vostre domande che arriveranno a personalbest@radio24.it, e seguiremo, insomma, questo percorso di avvicinamento verso la maratona dell'8 aprile. Grazie Fabio. Grazie a tutti e buona giornata. E grazie Francesca. Grazie a voi, buona giornata. Grazie anche Ivana, come tutte le domeniche. Ciao, grazie a tutti, buona domenica. E anche per oggi è tutto, vi ricordiamo il nostro indirizzo mail per i vostri commenti e le vostre domande, personalbest@radio24.it. Buona domenica. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.